Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio anche lo sport. Il lutto al braccio per la tragedia di Kabul, un minuto di raccoglimento sarà osservato in tutte le competizioni sportive da oggi a domenica per le vittime italiane in Afghanistan. È una disposizione immediata del presidente del CONI Petrucci. Stasera in campo Roma, Genoa e Lazio in Europa League, sperando in un bottino e anche in una figura migliore di quelle rimediate all'esordio sin qui in Champions, con la sola eccezione del Milan. Partita molto strana quella di San Siro, tra le più strane che mi sia capitata di vedere sinceramente in assoluto, con un Inter ancor più in suggezione di quella vista 6 mesi fa contro il Manchester, ai limiti del balbettio in molte fasi, e un Barcellona non meno strano in quanto accademico, no? che si è contentato e si è specchiato in questa superiorità sterile, perché poi alla fine anche nei gironi di qualificazione sono i gol che contano. Certo, sarebbe stata tutt'altra partita se si fosse trattato di un confronto già ad eliminazione diretta. Per questo io personalmente non impazzisco in questo periodo per le coppe, perché sono fasi a gironi, ma certamente una partita strana. Non meno strani, secondo me, per usare un eufemismo, i commenti di fine partita. Sentiamo quello di Mourinho. Noi abbiamo avuto la più grande difficoltà di tutte le squadre, che è giocare con un campione d'Europa, che non è campione d'Europa solo, è campione d'Europa e è la squadra che gioca meglio calcio in questo momento. Secondo me è la squadra mentalmente molto molto bene, molto forte, molto compatta, tatticamente dal punto di vista difensivo perfetta, ovviamente loro hanno avuto la sua opportunità, però anche noi. E offensivamente non è una di queste partite dove tu puoi avere 5, 6, 4, 7 palle gol, è una di queste partite dove tu hai 2, 3, noi abbiamo avuto. Questo era il commento di Mourinho. Io ho trovato abbastanza curioso, nel senso di fin troppo lusinghiero e fin troppo soddisfatto, quello di Guardiola. Sentiamo. Abbiamo fatto una prima parte, la seconda parte abbiamo stato molto, molto meglio, il risultato così è qua, 0-0, un punto per ognuno, sarà un giro molto duro, imparare la cosa che non abbiamo fatto del tutto bene, andare avanti. Ma voi l'avete visto da tanti anni, e sinceramente credo che un giocatore forte che ci andrà molto bene. Non è mai facile giocare contro la squadra italiana, un attaccante, quindi il secondo tempo è stato 9 giocatori là dietro, mai è facile, ma ha avuto qualche opportunità come adesso avete visto, e niente, un altro giorno entrerà. Campioni come questo non si limitano mai, sono così forti, no? Soltanto si possono limitare quando tu ce l'hai tantissimo la palla e loro non ce l'hanno. Ma questi giocatori possono stare bene o male, ma alla fine fanno così la differenza. Un giocatore così forte non giocano mai male. Di sicuro non hanno incantato né Tone né Ibrahimovic. Altrettanto di sicuro il migliore dell'Inter è stato Samuel, un muro vero e proprio, un muro mobile. E chissà se Samuel, vi ricordo che essendo argentino non gioca nella nazionale argentina di Maradona, e poiché Maradona in questo periodo è in Italia, è in clinica a Merano a provare a dimagrire, chissà se per caso ci ha dato un occhio ieri sera e ha deciso che effettivamente Samuel è leggermente più autorevole di una di quei due pippe che schiera la centrale Maradona in questa fase, che si sono viste contro il Paraguay e anche contro il Brasile. Mentre dall'altra parte non c'è dubbio che Xavi sia sempre più un maestro concertatore e direttore d'orchestra di un livello altissimo, capace di veramente di governare il centrocampo e di, con questa sua regia mobile mai accelerata, e anche di cambiare marcia. Lui, erano gli altri ieri sera che partivano sempre invariabilmente da fermi, Messi, Henry e non parliamo di Ibrahimovic. Dico da interista, anzi scrivo da interista sarebbe più corretto, Maurizio da Parma, che è stato sconcertante vedere un atteggiamento così arrendevole nella fase di non possesso palla, secondo me anche nella fase di possesso palla. Facciamo una parentesi, perché poi ci sarà spazio più avanti per i vostri commenti sulla partita di San Siro, anche sulla sconfitta a parer mio immeritata di Lione. Anzi, chiedo subito un'opinione dando il bentornato a Fabio Tavelli. Fabio, buongiorno. Buongiorno a te Gigi, buongiorno a tutti. Mi è sembrato, rispetto al solito, che in generale in questo turno, in queste prime due serate, ci siano stati arbitraggi meno convincenti del solito, e in particolare mi pare che L'arbitro Vink, che mi pare olandese, a Lione abbia preso una discreta cantonata a carico di Girardino. Sì, questo certamente sì. Aggiungiamoci anche qualche distrazione dei guardaline la serata precedente. Sì. Non mi è parso. Ora, dipende sempre qual è il metro di paragone. Se il metro di paragone è Tagliavento domenica sera, allora è andata benissimo. Se il metro di paragone è una cosa un po' più normale, allora diciamo che siamo sotto la sufficienza, non esageratamente, perché errori è normale, stiamo parlando di tante partite, errori ce ne sono stati, però effettivamente due o tre episodi non a favore delle squadre italiane ci sono stati. Ecco, da lì a dire che le squadre italiane sono poco tutelate all'estero, ce ne corre. Infatti era un discorso generale, sì. Indipendentemente poi dagli episodi. La Juve è stata penalizzata da un gol subito in fuorigioco, l'Inter è stata indubbiamente aiutata da un rigore non concesso, perché il braccio di Stankovic era nettamente volontario. La Fiorentina è stata pesantemente penalizzata, dicevo, da questa espulsione di Girardino, perché non mi pare davvero. Girardino è saltato a gomiti bassi, no, non alti, quindi è una sceneggiata di Turalan, mi pare. Guarda, sinceramente a me è tornata in mente un'espulsione in nazionale di Pazzini. Ecco, quella. Per cui succede. Io penso che adesso poi ci sarà in Europa League l'esordio dei giudici di porta, che però avranno competenze limitate. Però ripeto, secondo me anche l'errore grosso ci può sempre scappare, ci può sempre stare in 10 partite, sì. Anzi anche di più. Peccato davvero che sia andato a danno della Fiorentina. Sì, sai cosa? Non per diventare monomaniaco, ma insomma mi ha colpito che sia successo a Lione, perché l'anno scorso a Lione la Fiorentina evidentemente è un campo maledetto per i Viola. Non porta bene, non c'è dubbio. L'altro anno l'uomo a terra per 40 secondi, quel gol strano, eccetera. Ieri io credo che più dell'arbitro il colpevole sia proprio Turalan, che è un nazionale francese, tra l'altro, che fa una scena brutta. Sì. Secondo me sono proprio le cose più sgradevoli, perché l'arbitro può sbagliare, ma va lasciato sbagliare, non va aiutato a sbagliare. Questo è proprio brutto, perché ha in sé un concetto di antisportività che è proprio fastidioso. Cioè, l'arbitro può sbagliare, può prendere tutte le cantonate del mondo. Quando però viene orientato a sbagliare, cioè quando viene aiutato a sbagliare in maniera marchiana, ecco che fa ancora più rabbia. Hai fatto cenno, a proposito di questioni arbitrali, all'esperimento di Europa League. Allora, questo va in scena stasera, a suo modo. Quella di stasera potrebbe essere una data storica. Perché? Perché è la prima volta in una competizione ufficiale viene sperimentata la formazione dei cinque arbitri. La partita scelta è Panathinaikos Galatasaray. Gli arbitri sono italiani e sarà proprio Tagliavento a dirigere la partita. Gli assistenti Maggiani e Di Liberatore, il quarto uomo è D'Amato e i due giudici di porta sono De Marco e Morganti. Quindi tocca a sei italiani questo esperimento. Io credo che valga comunque la pena di essere seguito in dettaglio. Secondo me questa è la vera partita della settimana, nel senso che certo Inter-Barcellona stava sopra tutte, poi in realtà un po' almeno a me ha deluso, ma a parte questo. È certamente una partita che può entrare nella storia. Adesso io non so se augurarmi che accadano dei casi particolari in modo da vedere la reattività e la reazione degli arbitri, oppure augurarmi che non accada nulla, perché è sempre meglio quando gli arbitri non sono costretti a intervenire. Però questa sarà una serata certamente storica, perché comunque l'anno prossimo li avremo anche in Champions League, e credo anche che ai prossimi europei sarà così, e così come ai mondiali in Brasile. Quindi dovremo abituarci anche a questa presenza, che onestamente, Gigi, da qualche anno noi invochiamo. Perché è giusto, io avrei preferito Morganti in campo e Tagliavento a fare il giudice di linea, però va bene comunque. Comunque questo è un progetto UEFA, e il fatto che proprio stamattina il presidente dell'AIA, Nicchi, intervenendo a una presentazione dei campionati nazionali allievi e giovanissimi della FIGC, quindi in una sede federale, abbia detto mai dire mai alla Moviola in campo, mi sembra che dia una volta di più un'idea, no, della... L'Europa sta andando da una parte, ecco, l'Italia dall'altra. Esatto, della confusione, anche se era un discorso accademico e ne ha parlato come di un rimedio potenziale, ma insomma, dire che sia di buon gusto e soprattutto che sia tempestivo, certamente no. Speriamo sia stata una battuta uscita male. Speriamo di no. Siamo buoni. Ecco, invece riassumendo un pochino a volo l'uccello su queste due serate, ma soprattutto su quella di ieri. Allora, hanno fatto l'ennesimo en plein le inglesi, per esempio, però mi pare che tutte e quattro abbiano a modo loro stentato, anche quelle di ieri, eh? Allora, due cose, senza volersi citare, io sono abbastanza convinto di questo e lo abbiamo già detto nelle nostre conversazioni, le quattro inglesi sono complessivamente calate. Sono complessivamente calate, nonostante abbiano vinto tutte e quattro, l'hanno fatto in maniera non convincente e continuo a pensare che non ci sarà quest'anno il dominio degli inglesi, ma non tanto e non solo perché Real Madrid e Barcellona siano fortissime, perché comunque il Barcellona lo era anche l'anno scorso e si è visto, e il Real Madrid certamente diventa un cliente ancora più pericoloso, a maggior ragione perché avrà la finale in casa. Però le inglesi complessivamente faranno fatica, perché l'Arsenal comunque ha raddrizzato una partita pazzesca, cioè dopo meno di 10 minuti era già sotto di 2 gol, sì. E ha dovuto ricorrere a tutto il suo estro per rientrare e per non perdere. Il Chelsea è tutt'altro che convinto e comincio a pensare che Ancelotti si stia un po' murignizzando per quanto riguarda il tipo di approccio che ha, perché vabbè, certo non c'era Drogba, però nel caso un buon giocatore importante, non a caso ha segnato, però lui sta veramente ripercorrendo tutta la primissima fase di Mourinho, cioè quelle vittorie di misura, quelle vittorie che sono dei mezzi pareggi che diventano poi vittorie grazie ai colpi, sì, dei suoi giocatori, e quindi tutto questo è vero. Cioè le inglesi sempre più forti, ma non avevano grandi avversari e li hanno battuti tutti facendo non dominando mai. C'è anche il Liverpool che vince 1-0 contro il Debrezeni, è onestamente poco. Sì, e tra l'altro 1-0 abbastanza avventuroso, con, sì, con qualche rischio finale in casa. Liverpool che sarà il prossimo avversario della Fiorentina a Firenze, ma senza Girardino, perché la squalifica scatta automaticamente al di là di tutto il resto. Un ascoltatore che scrive da Parma scrive che l'espulsione è stata esagerata, ma in campo europeo non tollerano chi salta con gli alettoni aperti. Questo è anche vera, come osservazione. No, perché è verissima. I gomiti di Girardino erano larghi, non erano alti, e però l'equivoco si presta. Hai ricordato tu l'episodio di Pazzini, il, sì, cui gomito comunque era più altino, di quello, no, di Girardino. No, è vero, è un problema che per tanti anni, ma ancora adesso, abbiamo ad esempio nel basket, cioè con le differenti interpretazioni, a maggior ragione in uno sport dove l'incidenza interpretativa degli arbitri e soprattutto il fatto che è un colpo d'occhio ancora più veloce, può davvero fare la differenza. Bisogna adeguarsi, bisogna capire, e anche in questo, a parer mio, il Milan è ancora la squadra più avanti di tutte le altre. Bisogna capire in che habitat ci si esibisce, certo, perché quello è un teatro diverso e che quello necessita proprio di un approccio completamente diverso, e in questo il Milan è ancora avanti rispetto a Inter, Juventus e logicamente Fiorentina. D'accordissimo. Fabio, io concluderei osservando, anche se non è particolarmente originale, ma insomma osservando che, per carità, questa formula a gironi molto allargata è molto democratica, perché appunto permette a tante squadre questa ribalta, questo sogno, questa esibizione. Poi ogni tanto vedi dei filmati come ieri sera in un paio di partite, ma anche l'altra sera, che francamente ti farebbero una rivoglia di una selettività maggiore. Guarda, questo è vero, Gigi, però ti dico anche che mi aspettavo, con l'ingresso di queste 6-7 formazioni quasi sconosciute, mi aspettavo che qualcuna di loro prendesse un'imbarcata terribile. E invece non c'è stato. Questo significa forse che le grandi sono leggermente calate, ma le piccole sono un po' più cresciute rispetto a quanto sono calate le grandi. A maggior ragione, il fatto di fare 3-4 turni preliminari vuol dire iniziare molto prima la stagione ed essere molto più in condizione. Quindi nelle prime 2-3 partite queste squadre possono anche portare via il punticino che poi alla fine diventerà decisivo. Questo, quindi guai a sottovalutarle, sinceramente. Questo è vero, in effetti c'è stato molto più equilibrio che non, sì, in altri esordi, in altre circostanze. Questo è vero, questo è vero. Fabio, grazie non soltanto per oggi, ma per questo tour de force di questi giorni. Sono piacevole con te. Grazie, che d'altra parte era inevitabile, perché insomma i primi giorni di scuola di Coppa Campioni, anzi di Champions League, non possono non essere seguiti da vicino. Guarda Gigi, io credo che se facciamo un'analisi un po' serena, la Champions League comunque è sempre molto, diciamo, largamente in vantaggio rispetto ai campionati momento. Per lo meno al nostro non c'è dubbio. Al nostro non c'è dubbio. Allora, grazie a Fabio Tavelli. Chiudiamo questo collegamento. Tra poco abbiamo il secondo intervallo di giornata, che sarà credo un pochino più lungo, perché oltre agli aggiornamenti dei mercati avremo anche Avremo anche degli aggiornamenti ben più drammatici, quelli che arrivano da Kabul. Ci risentiamo quindi tra qualche minuto per i vostri commenti e i vostri interventi in diretta. Scrive Massimo D'Alecco: ma se si vede benissimo che Stankovic fa di tutto per tirare indietro il braccio. Giovanotto, Stankovic fa di tutto per allargare il braccio e andare a prendere il pallone facendo finta che si dia il ginocchio, e poi nel movimento complessivamente lo muove anche un pochino all'indietro. Lasciamo stare, è andata bene così, no? Mi pare, all'Inter. No, non ci sono aggiornamenti da Kabul, e quindi possiamo rientrare direttamente in studio con i nostri appuntamenti, con gli ascoltatori già collegati, con alcune notizie. Per esempio gli arbitri designati oggi da Collina per le partite di sabato e domenica: allora Bari-Atalanta Tommasi, Cagliari-Inter Orsato, Catania-Lazio Morganti, Chievo-Genoa Rocchi, Juventus-Livorno, che è l'anticipo serale del sabato 20:45, Pierpaoli, Milan-Bologna Valeri, Napoli-Udinese sabato alle 18 Saccani, Parma-Palermo Giannoccaro, Roma-Fiorentina posticipo della domenica sera 20:45 Rizzoli di Bologna e Sampdoria Siena Russo. Questi gli arbitri designati. Vi ripeto poi questo squadrone addirittura di italiani che opererà stasera in Panathinaikos Galatasaray, la prima partita con i due giudici di porta, con Tagliavento ad arbitrare, con Maggiani e Di Liberatore guardaline assistenti, con D'Amato quarto uomo e poi De Marco e Morganti giudici di porta. Scrive Lorenzo da Modena: penso sarebbe meglio impiegare questi due arbitri in più come guardaline, in modo che si possa coprire il campo in tutta la sua lunghezza, piuttosto che lasciarli inoperosi per 90 minuti accanto ai portieri. No, non sono d'accordo. Se restano inoperosi è perché non ci sono situazioni difficili da dirimere in area, però questi servono proprio per quelle occasioni, o serviranno o dovrebbero servire, poi si vedrà, ma proprio per le occasioni chiave in area di rigore. Occhi umani, non occhi elettronici. Fausto ha chiamato da Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Io avevo solo una semplice domanda. Vedendo la partita di ieri sera, a me è sembrato che Ibrahimovic sarebbe stato il perfetto centravanti dell'Inter e tu il perfetto centravanti del Barcellona. Sarebbe finita ben diversamente la partita. Tutto qua. Può darsi, perché l'Inter non aveva la forza e la personalità di portare su palle e di gestirla come invece faceva il Barcellona, e quindi lanciandola come ha fatto per 3 anni, no? Lanciandola a Ibrahimovic poi diventavano problemi suoi, e in campo nazionale diventavano problemi degli altri, in campo internazionale restavano problemi suoi, no? Perché poi anche quell'esperienza la si è fatta. E Eto'o certamente è un giocatore abituato a ben altra velocità di circolazione di palla e a ben altro tourbillon sia di pallone che di posizioni, e quindi questo nell'Inter per il momento gli sta mancando, soprattutto quando la squadra dall'altra parte è una grande, anzi grandissima squadra come il Barcellona. Osservazione più che mai pertinente. Luca da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo esprimere la mia opinione in merito alla partita di ieri sera. Perché sono rimasto un poco deluso dall'Inter, perché diciamo Mourinho aveva preso pure l'aumento da 9 è passato a 11, ma questo grande non l'ho visto. Non volevo la sua opinione, perché praticamente mi fa più strano questo stipendio di questo allenatore così preponderante, e il gioco non è che se ne veda tanto. Non so se lei è d'accordo con me. Ma io continuo a dire che la vera specialità di Mourinho, che si sia vista fino adesso in Italia, in questo ormai non più breve permanenza, è sicuramente con microfoni e taccuini. Lì è indubbiamente un tecnico di grande personalità. Poi si può discutere, e io lo discuto molto, se è per quello, sui concetti e sul suo tasso di sportività, che mi sembra minimo sinceramente, ma lì comunque è un numero uno, non si discute. In panchina invece secondo me lo si può discutere come, fermo restando che nel caso di ieri comunque ha, mi pare, saggiamente, realisticamente pensato innanzitutto alla fase difensiva, e la fase difensiva dell'Inter era organizzata veramente bene. Poi resta da vedere se sia un limite suo o un limite dei giocatori, e sarei più per la seconda ipotesi, quello di essere poi così balbettanti in fase di riproposizione. Che non si è praticamente mai vista, si è vista in un paio di occasioni nel primo tempo e forse una o due nel secondo, ma in mezzo a fasi di possesso palla veramente interminabili degli avversari. Marione ha chiamato la provincia di Milano, buongiorno. Lanzini, buongiorno. Io volevo spostare un attimo l'argomento sul Milan da appassionato rossonero. Io ho visto che comunque il Milan è stata l'unica delle quattro squadre impegnate in Coppa dei Campioni ad aver vinto. Questo secondo me, a parer mio, non nasconde i reali problemi di questa squadra che diciamo si trasforma in Coppa dei Campioni, ma a me sembra veramente una, diciamo, qualcosa che a noi tifosi e a noi appassionati del Milan può non andare sicuramente bene, perché se il campionato viene snobbato in questa maniera e una squadra corre così con quella dedizione in Coppa dei Campioni, non è che ci può andare molto, non è che ci può andare bene, ecco. Io reputo che comunque le condizioni ambientali di Marsiglia, con quel clima e con quel calore del pubblico, io penso che comunque sia stata una specie di impresa andare a vincere a Marsiglia sempre con le dovute proporzioni. Sì, sì, certamente lo è stato. E certamente non è da oggi che poi che il miglior Milan si vede al martedì o mercoledì e non al sabato o la domenica, no? Mi pare che ormai sia una tendenza consolidata da anni e sia stata in certi anni in cui si poteva magari giocare su tutte e due i tavoli, sia stata una precisa scelta societaria, proprio non c'è niente di nuovo in questo. Quindi per il momento suggerirei di accontentarsi che sia successo a Marsiglia. Dopodiché non mi pare che il Milan stia snobbando però il campionato, è che è un po' diversa, insomma, la faccenda, e che probabilmente insomma un po' la convinzione, ma soprattutto anche l'organico, insomma, non sono tali da permettere grandi voli pindarici quest'anno. Io direi di prendere, per i milanisti, di prendere quello che di buono è arrivato da Marsiglia, chissà che non sia un rilancio anche sull'altro versante. Da Torino ha chiamato Luca, buongiorno. Sì, buongiorno maestro Garanzini. Maestro. Degna rete del maestro Juan Brera. Sì. Allora, detto che sì, chiaramente Barcellona è una squadra di un'altra categoria, però non lo so, l'unico che forse poteva, che era indispensabile, che Lindner non può più scendere nel centrocampo, era Cambiasso, perché una partita così veramente uno come Cambiasso era colato. Loro sì, mancavano Iniesta, però insomma, poi era in Cambiasso da una parte, Iniesta dall'altra. Non lo so se questa è una giustificazione, un po' essere un motivo, oppure comunque c'è ancora molta differenza dall'Inter nazionale all'Inter di Coppa, ecco, questo volevo sapere, insomma. Cambiasso è un elemento prezioso, l'Inter sta certamente patendo la sua assenza, perché Cambiasso è l'uomo ovunque del centrocampo interista ed è il centrocampista di migliore qualità dell'Inter ormai da stagioni a questa parte. Però insomma, una squadra di quelle ambizioni e di quella rosa deve saper fare a meno dell'assenza di Cambiasso, senza contare che sì, mi immagino benissimo ieri sera Cambiasso andare a pressare, ad attaccare il pallone in maniera ben diversa da come hanno fatto gli altri, però si sarebbe sfiatato, perché poi non può essere uno che pressa e che va ad aggredire il portatore di palla o il pallone se gli altri osservano e rinculano, no? come rinculavano gli altri centrocampisti. Quindi non credo avrebbe spostato l'ago della bilancia. Certamente sarebbe stato utile, questo sì, come lo è sempre. Quanti spettatori? 7.454.000, quindi il doppio che la Vespa, grosso modo, per Inter Barcellona ieri sera su Rai 1. Gli arbitri ve li ho dati. Ah, ecco, questa è una notizia che mi fa piacere dare. È un comunicato che arriva da Milano, dalla Fabbrica del Vapore di via Procaccini, dove oggi si apre una mostra fotografica che si chiama La Milano di Loi. Loi nel senso di Duilio Loi, del grande pugile milanese, ed è una galleria di fotografie che sarà aperta tutti i giorni da oggi all'11 ottobre, dalle 15.30 alle 19.30. Sono fotografie di un grande fotografo storico sportivo che si chiama Vito Liverani. E proprio Vito Liverani, in compagnia della figlia di Duilio, Loi Bonaria, e dell'assessore allo sport del Comune di Milano, oggi inaugurerà questa mostra con foto storiche delle grandi imprese di Loi e in particolare dei suoi combattimenti milanesi a San Siro, di quella volta che riempì San Siro per un combattimento con il titolo mondiale in palio, poi regolarmente vinto. Tocca a Enzo dalla provincia di Catanzaro, buongiorno. Buongiorno, sono... Senta, volevo fare un intervento per quanto riguarda il collaboratore dell'arbitro. Sì. Io, secondo me, sono inutile mettere due persone dietro le porte. Secondo me andrebbero aggiunti due segnalini in più, quattro da ogni lato, cioè due da ogni lato. Lei che dice? Io dico che non sono d'accordo perché i segnalini erano quelli che segnavano le linee. I guardalinee, oggi promossi, da tempo promossi ad assistenti, distribuiti come sono, secondo me sono sufficienti. L'importante è che siano attenti e secondo me lo diventano sempre di più. E notavo ieri sera proprio per Inter Barcellona che in questo inizio di campionato sono più bravi i nostri di quelli, per esempio, che c'erano, dei due tedeschi che c'erano a San Siro ieri sera. Avrebbero, come hanno sempre avuto, una visione periferica comunque dell'area di rigore, mentre è ben diverso poter giudicare da una posizione retrostante la porta. Io credo che la combinazione tra chi giudica da dietro e da davanti, cioè l'arbitro d'azione, porti, eventualmente con l'aiuto di chi incrocia lateralmente l'assistente, cioè possa portare a un raggio, no? Come un triplo raggio visivo che mette in condizione di non sbagliare più, perché questo è impossibile, ma di sbagliare un pochino meno. Torniamo in onda per scoprire che cosa ha scoperto a sua volta oggi Nicola Filippone a proposito della storia dello sport il giorno di oggi, cioè il 17 settembre. Sembra ieri. 17 settembre 1989. Napoli, Stadio San Paolo. L'attaccante della Fiorentina Roberto Baggio realizza uno dei più bei gol della sua carriera. Prende palla a centrocampo, salta in dribbling due difensori partenopei e il portiere Giuliani e deposita la palla in rete. Una prodezza applaudita anche da Maradona, in panchina con un'insolita barba lunga. L'argentino è appena tornato dalle ferie, prolungate in polemica con il presidente Ferlaino. In campo Baggio continua a essere protagonista. Il fantasista mette a segno anche il 2-0 sul rigore dopo aver subito fallo da Renica. A far rialzare il Napoli ci pensa ovviamente Maradona, che subentra Massimo Mauro a inizio ripresa e dopo aver sbagliato un rigore trascina i compagni a un insperato 3-2 finale. In effetti era una giornata di campionato come un'altra in teoria, ma quel giorno qualcosa successe per questa strepitosa rimonta del Napoli che poi fruttò qualcosa di nuovo a fine stagione, ma soprattutto per quel gol di Roberto Baggio che ogni tanto si rivede in qualche filmato ed è uno slalom in controtempo sensazionale che parte da metà campo e si conclude sull'uscita del portiere. Quel giorno, non credo di ricordare male, quel giorno mi pare che Gianni Brera scrisse di aver rivisto nel modo di Baggio di chiamar fuori il portiere e di infilarlo con un tocco felpato, di aver rivisto niente meno che Peppino Meazza, cioè il grande dell'anteguerra che Brera ovviamente per ragioni anagrafiche aveva potuto veder giocare. Alessandro ha chiamato da Varese, buongiorno. Buongiorno Garanzini, che bei ricordi quelli. Purtroppo ormai in Italia non si riesce più a giocare così. Io vedevo ieri il Barcellona, era uno spettacolo. Anche con la difesa chiusa dell'Inter avevano sempre un'idea su cosa fare, erano sempre pericolosi con una difesa grande come l'Inter. Spero che in Italia si vedrà prima o poi giocare così. Non è semplice, perché per giocare così bisogna che una parte cospicua della squadra, insomma la più numerosa possibile, impari a giocare quel tipo di calcio fin dalle giovanili, cosa che succede a Barcellona, perché con la cantera del Barça, nella cantera del Barça si comincia a giocare così, e questa è una cosa che credo risalga a niente meno che a Johan Cruyff, che è stato, oltre che un grande giocatore del Barcellona, poi è stato un grande allenatore del Barcellona e aveva suggerito, imposto, insomma, usate il verbo che volete, proprio questo tipo di filosofia, che aveva mutuato peraltro, che aveva importato dall'Ajax, e cioè dall'Olanda, dove adesso c'è un momento di crisi, ma succede più o meno lo stesso, cioè le giovanili crescono con giocando il genere di calcio che poi si fa in prima squadra. Insomma, morale, è così, ma è così in teoria, ma poi lì lo si vede nella pratica, perché si vede come Xavi, Iniesta, Piqué e tutta questa gente ha quel, lo stesso Messi, che poi è cresciuto lì pur essendo argentino, ha quel modo, no? Che è comune a tutti. E gli altri che arrivano da fuori si adattano a quel tipo di calcio. Massimo da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo dire che molto spesso si sente, no, di Guardiola, e si dice che si dovrebbe imparare da lui, quanto è giovane, quanto è bravo, eccetera. Però ieri ha dimostrato, secondo me, anche che bisognerebbe imparare da lui dal punto di vista umano, perché non so se lei ha notato l'intervista del dopo partita. Da una parte c'era Mourinho che si vantava non so a che titolo di aver costruito 4 palle gol, mentre dall'altra c'era Guardiola che non si è vantato assolutamente, pur essendo l'allenatore della squadra probabilmente migliore al mondo in questo momento, di aver dominato l'Inter a casa sua. Sembrava a tratti un'umiltà, a tratti disarmante. È vero. Infatti sì, persino troppo signore, se vogliamo. E così come era persino troppo piazzista l'altro, no? Combinazione. Questo vuol dire più sì, o meno. Sì, volevo dire quello, insomma. Perché alla prima intervista Mourinho diceva 4 opportunità, alla seconda intervista le 4 opportunità si erano trasformate in 4 palle gol. Sì. È incredibile. Ma ripeto, con i microfoni di Tacquini è più facile che non, no? Non con gli avversari. Brera scrisse di Baggio, ecco qua che Flavio Suarez è entrato in azione. Brera scrisse di Baggio, mi ricordo Pepin Meazza, non credo si possa fare elogio più alto di un giovane attaccante al giorno d'oggi, ha segnato 2 gol e ha inventato 3 palle gol per i compagni. E la voce, sentiamo una voce che arriva da Lione e sentiamo quella di Frey, perché Frey ha qualche, se avete visto le immagini, ha qualche piccola responsabilità non minima sul gol dei francesi, perché ha respinto corto un pallone, ma è anche vero che non so quante altre ne ha parate e di quelle davvero difficili. Sentiamo il francese Frey dopo questa sconfitta con i francesi. No, io credo che soprattutto nel primo tempo in 11 abbiamo lasciato un'impronta molto positiva, abbiamo giocato, loro hanno creato poco, li abbiamo anche aggrediti, abbiamo giocato molto alto, quello che ci ha chiesto il mister, di cercare di non aver paura, l'abbiamo fatta molto bene, credo. Poi è ovvio che rimanendo in 10 su un campo europeo come questo, contro una squadra che gioca molto, molto bene a palla, palla a terra, ovvio dopo ti mettono in difficoltà. È ovvio che questo un po' ci spiazza, perché comunque Gila è un giocatore importante per noi, un giocatore che fa peso davanti, è un nome, comunque già solo averlo con noi, comunque gli altri hanno un occhio di riguardo. Io credo che, riguardando l'espulsione, mi è sembrata un po' esagerata sinceramente, perché voglio dire, non mi sembra da rosso, ecco, l'unica cosa che posso dire. Io credo abbia nettamente ragione Frey. Stavo leggendo un'agenzia che Xabi Alonso, il regista del Real Madrid, è costretto ad almeno un mese di stop e non è detto che basti, ha avuto un infortunio con lo Zurigo nel 5-2 di domenica sera dell'altra sera con Real Madrid. La prognosi minima per l'appunto è di 4 settimane di riposo. Devo anche dire che se non ho visto male quell'incidente, ci starebbero molto bene altrettante settimane di squalifica per il macellaio dello Zurigo, che è entrato in quella maniera su di lui a metà campo. Ripeto, sempre che abbia visto bene, ma non credo di sbagliare. Franco ha chiamato da Chiasso, buongiorno. Buongiorno. Io ho una piccola divagazione, anche perché insomma, parlando di Baggio, non volevo parlare di questo, ma mio figlio si chiama Roberto, una ragione ci sarà. Ma non sono un super tifoso generale di calcio, chiamerei anche un altro figlio Valentino, un altro Roger come Federer, ma io chiamavo però per quanto riguarda la decisione, non so se è già definitiva, di Platini, che fra 3 anni tutte le squadre che avranno dei deficit consistenti non potranno più fare le coppe. Sì. Vedremo Jones Bescia come una volta in Coppa dei Campioni, Andorra, Reykjavik, perché in Svizzera anche la Juventus Svizzera, che Grasshopper sballa malissimo, malissimo, il Servette in Serie B, il Losanna in Serie B. Il Lugano è fallito. Lugano si chiama Associazione Calcio, poi io sono di Chiasso, si immagini. Certo, mi pare che un'altra squadra, non di quella levatura, ma quasi sia fallita recentemente per motivi, che è la Chaux-de-Fonds, o sbaglio? No, la Chaux-de-Fonds stava ballando male allenatore di Chiasso. Stava ballando male economicamente, adesso credo che sia salvato. Bettingen, che ha giocato contro il Napoli in Coppa dei Campioni, che aveva fatto tremare un po' il Napoli di Maradona. Franco, lei essendo proprio di Chiasso, lei saprà, no, che una delle espressioni più gettonate è quella di quello che accade oltre Chiasso, no? Quello che accade oltre Chiasso è leggermente diverso da quello che accade in Italia, nella fattispecie da quello che accade anche in altre società europee, soprattutto le inglesi e le spagnole. Noi dedichiamo abbastanza spazio a queste tematiche con l'aiuto di Marco Beninazzo del Sole 24 Ore, e continueremo a farlo. E prossimamente avevo proprio in mente, lei mi ha preceduto, di partire dal Bellinzona e di farci raccontare al presidente del Bellinzona, italianissimo e milanese peraltro, come funziona in Svizzera. Adesso devo chiudere anche un pochino in fretta per ragioni di orario. Grazie a tutti gli intervenuti, a Fabio Cantadori in regia, a Flavio Suardi in redazione. Buon pomeriggio.